Ancora riprendiamo la linea quando sono le 11:55. Allora, ieri, 9 luglio, è stata anche una giornata di assemblea pubblica alla nuova occupazione di via Mattia Battistini numero 100 del coordinamento cittadino di lotta per la casa, un'assemblea per fare un po' il punto sulla situazione che si è venuta a determinare sull'onda ovviamente delle lotte per la casa degli ultimi mesi e anche di quello che è successo la scorsa settimana, quando insomma il presidio degli attivisti e degli occupanti di coloro che si trovano in un'emergenza abitativa nella nostra città è stato brutalmente caricato dalla polizia. Noi siamo al telefono con un compagno che salutiamo e a cui buongiorno chiediamo a tutti e tutte. Ciao, buongiorno, di farci un report per capire insomma quali sono stati i temi principalmente discussi nel corso di questa assemblea di ieri. Certo, allora innanzitutto diciamo che era un'assemblea che partiva anche dal fatto di difendere pubblicamente questa nuova occupazione, quindi di dimostrare anche al quartiere quante realtà sia di movimento o comunque di solidali accorressero comunque a discutere dentro questa nuova occupazione e quindi automaticamente anche a difenderla nel caso che poi venisse messa sotto attacco. L'assemblea piuttosto affollata, insomma, con a parte i movimenti di lotta per la casa, ma anche altre realtà di movimento, del sindacalismo di base e anche qualche abitante del quartiere e l'inquilinato resistente ovviamente, quindi insomma una composizione variegata che la discussione si è svolta su più binari ovviamente, innanzitutto quello dell'attualità della lotta per la casa a Roma, quindi le cariche della settimana scorsa, c'era anche Stefania, la ragazza di San Basilio che è intervenuta, insomma sta meglio fortunatamente, è già tornata attiva. E insomma e un po' di valutazioni su quello appunto che sarà questa estate per noi, per le nostre occupazioni. E ci sarà intanto questo incontro martedì con il sindaco, che è un incontro piuttosto importante perché si capirà un po' che aria tira insomma rispetto a tutta quanta l'estate, che come sempre è un periodo un po' minaccioso tra virgolette per chi occupa, e vedremo appunto quali saranno le prese di posizione del sindaco e di nuovo di tutta la nuova giunta comunale, perché nell'immediato seguito sia delle nuove occupazioni del 28 giugno sia delle cariche del 1 luglio qualche segnale di distensione c'era stato, insomma, di volersi quantomeno impegnare in maniera seria, insomma, almeno a parole, per risolvere l'emergenza abitativa, per fare nuove politiche abitative eccetera, il che automaticamente in teoria vorrebbe anche dire non sgomberare, perché se ti impegni a risolvere l'emergenza abitativa tendenzialmente non dovresti aggravarla sgomberando delle occupazioni anche molto grandi, quindi con centinaia e centinaia di persone lasciate in mezzo a una strada, però appunto si verificheranno un po' le intenzioni anche delle istituzioni a riguardo, mentre dal nostro punto di vista della lotta le cose vanno bene, insomma le occupazioni si consolidano, lavorano, sistemano i propri posti, insomma li fanno vivere ogni giorno di più, quindi appunto aspettiamo anche di sapere un po' meglio come la pensa la controparte. E poi per il resto si è anche andati oltre, però c'è la mobilitazione autunnale che è già stata lanciata a Porto Fluviale all'Assemblea Nazionale di inizio giugno e questa continua, insomma questo percorso continua. Durante quest'estate ci saranno vari incontri nazionali, ci sarà questo fine settimana un incontro sul Monte Amiata delle realtà territoriali, insomma le realtà che lottano per la difesa dell'ambiente e del territorio più o meno in tutta Italia. Ci sarà un incontro anche al campeggio Notav in Val di Susa per costruire un po' non solo il corteo del 19 ottobre, ma un po' tutto il periodo che lo precederà e che seguirà anche questo corteo, insomma perché sia un autunno di lotta vera e non solo di date di piazza, che comunque sono importanti, sicuramente anche quelle, appunto per ora è il 19 la nostra data, ma per costruire proprio un'onda di mobilitazione che sia molto altro che manifestazione, quindi passando in questi, facendo anche questi passaggi, parlando direttamente di altri movimenti su scala nazionale, costruirla nel migliore dei modi e appunto far sì che si riesca davvero a mettere in difficoltà non solo le amministrazioni di ogni città in cui si fa la lotta per la casa, ma andare un po' oltre, insomma andare su un piano più generale, sia contro il governo, ma in generale contro l'austerità, contro le politiche che continuano a imporci. Poi un governo del genere è proprio un governo che continuerà a massacrarci, quindi insomma è un po' questo il tenore delle discussioni che si fanno, che si sono fatte anche ieri. Va bene, ci sono ovviamente tanti spunti che possono essere discussi, a cominciare proprio, diciamo, dal dispositivo che puntualmente, insomma, si abbatte ormai su qualsiasi forma, diciamo, di reazione dal basso su problemi poi peraltro molto importanti, come ad esempio quello della casa e dell'emergenza abitativa, intendo il dispositivo di ordine pubblico, che spesso quello che almeno cioè, si ha la percezione che ormai scavalchi di sana pianta qualsiasi tipo, diciamo, di considerazione, di opportunità anche politica. Da questo punto di vista cogliamo anche, diciamo, proprio le sensazioni immediate che ci sono state l'altro giorno in piazza, no? Nel senso che mi è sembrato proprio di capire quanto anche da parte degli amministratori a un certo punto ci fosse una sorta così di meraviglia rispetto a un certo comportamento piuttosto aggressivo da parte delle forze dell'ordine. Questo è il primo punto. D'altra parte, Mattias, c'è anche da rilevare positivamente, da una parte, forse non proprio dall'altra, il fatto che sia il movimento di lotta per la casa a farsi carico di una situazione, diciamo, che reclama un investimento politico forte di carattere più generale e anche nazionale. È positivo ovviamente per i movimenti di lotta per la casa, perché vuol dire che si stanno conquistando attraverso lotte che ormai durano da mesi una loro centralità. Certo, c'è da dire che sarebbe il caso che anche magari, no, altri pezzi di movimento fossero adeguatamente al passo, no? Certo, sulla prima cosa che dicevi sull'ordine pubblico, ovviamente le valutazioni nostre sono valutazioni, su quello che noi vediamo, non possiamo sapere tutte le dinamiche che stanno dietro alle decisioni delle varie istituzioni, quindi comune, regione, questura e Ministero degli Interni. Sicuramente ci sono varie spinte, insomma, in quel campo lì. Per quanto sia ovviamente un campo di forze compattamente al servizio dei padroni, del capitale, questo lo sappiamo, insomma, quindi non è che il PD sia una svolta, una vera alternativa, questo ci mancherebbe altro, però secondo me, questa è una mia valutazione anche molto personale, c'è stato un po' di imbarazzo, perché insomma le dinamiche che si muovono dietro anche alle politiche abitative, al tipo di padronato che è quello dei palazzinari. Insomma, la sensazione è stata che ci sia stato un po' di conflitto interno che ha portato poi a sfogarla su di noi, come sempre accade, insomma, a prendere bastonate siamo noi, ma che appunto ci fosse un po' di imbarazzo nella giunta quando sono anche scesi subito dopo. Certo, sono stati, diciamo, molto poco, cioè nella migliore delle ipotesi la nuova giunta è un po' poco sveglia, perché permettere a 20 fascisti di salire sul Campidoglio, cioè lì va bene che la questura gliel'ha permesso, ma lì il sindaco, appena lo sa, potrebbe anche dire mandate via, perché c'è un corteo di migliaia di persone autorizzate che sta arrivando. Insomma, questo magari non è stato fatto, però nel momento immediatamente successivo, anche all'afferimento di Stefania, insomma un po' di imbarazzo si è notato. Insomma, il sindaco è andato in ospedale, che sarà un gesto sia sicuramente simbolico, ma comunque che fa piacere, insomma. Quindi insomma qui continueremo a osservare cosa si muove, ovviamente a partire dall'incontro col sindaco. Mentre sul secondo punto che sollevavi, sì, noi siamo anche contenti, tra virgolette, orgogliosi di quello che stiamo facendo. È verissimo però che è una situazione strana, insomma, anche perché negli anni, lo ripetiamo spesso anche nelle nostre assemblee, fino a qualche anno fa, fino a poco tempo fa, i movimenti di lotta per la casa erano decisamente marginali dentro le dinamiche dei movimenti, erano un po' gli sfigati che occupavano le case con i poveracci, tra virgolette, se mi permetti la battuta. Mentre adesso, insomma, con le ondate che sono state capaci di fare, non solo a Roma, questo va detto, andando ad affrontare un bisogno che evidentemente nella popolazione sia immigrata ma anche italiana ormai è quello principale, è quello più drammatico, sicuramente si sono conquistati una centralità. Certo, non può essere tutto sulle loro spalle, quindi in vista anche dell'autunno io mi auguro che le realtà che si occupano per esempio di lavoro, adesso io penso c'è un esempio abbastanza positivo degli operai della logistica, ma spero che in vista dell'autunno, insomma, anche altre realtà, sia di lotte auto-organizzate come quella, sia del sindacalismo di base, che però già si è un po' mosso perché farà quasi sicuramente ormai uno sciopero il giorno prima, quindi del 19, quindi il 18 ottobre, quindi comunque si prospetta, c'è già con qualche mese di anticipo la prospettiva di fare delle giornate di mobilitazione, insomma, che siano qualcosa che abbia un impatto forte. Certo, con l'augurio che siano il più possibile movimenti che si occupano un po' di tutto quanto, i movimenti territoriali stessi ad esempio, a convogliare su questo autunno una grande capacità di mobilitazione, a far ritornare anche questo paese, insomma, un paese in lotta, in conflitto come tanti altri paesi intorno a noi sono stati anche in questo anno. Benissimo, una centralità peraltro che si riflette anche, diciamo, nei pezzi di carta che vengono distribuiti e che circolano, visto che si insiste anche su questioni, ripeto ancora una volta, di carattere più generale, ad esempio quella repressiva. Ed è certamente importante il fatto che si ribadisca il rifiuto della criminalizzazione, cito testualmente, diciamo, proprio dall'indizione dell'assemblea di ieri, e si faccia riferimento proprio alla solidarietà che dovrebbe essere sempre garantita nei confronti degli imputati dei reati di devastazione e saccheggio a seguito dei fatti del 15 di ottobre. Allora, grazie Mattias, e sicuramente, ovviamente, già peraltro se ne è parlato la settimana scorsa direttamente qui in radio, insomma, ma dell'appuntamento del 19 ottobre ci saranno una serie di tappe di avvicinamento, visto che la scadenza in un modo o nell'altro sta assumendo una sua caratterizzazione così abbastanza importante, insomma, nel panorama delle lotte che si preannunciano di qui al prossimo autunno. Ciao. Ciao, grazie a voi, ciao.